10 giorni prima della fine dell'anno l'azienda inaspettatamente ci ha comunicato che il contratto integrativo, che era frutto di una lotta e di conquiste fatte nel corso degli anni e di vari rinnovi contrattuali nei corsi dei 3 anni, a partire dal 2007, quindi un contratto integrativo storico, ci ha detto che dava disdetta, dal 1 gennaio non si applicava più. Contratto integrativo che contiene molte norme a favore dei lavoratori, ne cito un paio: il ripristino dell'articolo 18 contro il licenziamento senza giusta causa, il premio di risultato, la stabilizzazione dei lavoratori precari dopo 12 mesi, più altre varie cose. Dall'oggi al domani, dal 31 di dicembre al 1 di gennaio, nel giro di un giorno, sparisce. E oltre a questo c'è anche il fatto che ci ha comunicato che dal 1 di gennaio sempre partiva il nuovo lavoro agile, che non sottostava più agli accordi sindacali tra le parti, che prevedevano 3 settimane a casa e 1 in sede, ma che si sarebbe fatto soltanto un giorno a settimana a discrezione dell'azienda. Ma l'azienda ha motivato questa scelta unilaterale? No, non ha dato nessuna motivazione, salvo dire che lei è disponibile a ridiscutere di accordi nuovi, partendo però, questo è anche l'aspetto grave, dalla cancellazione dei diritti conquistati prima. Noi abbiamo detto siamo disponibili a discutere di accordi nuovi, ma partendo dagli accordi in essere, non partendo da zero. Voi tra l'altro sottolineate che questo contratto integrativo aiutava anche nell'appalto con ERA che in questi giorni si decide, giusto? Sì, così ci è stato sempre riferito non solo da Coin e Bologna, ma anche da altre aziende che gestivano altri lotti del bando di gara. Ci è sempre stato detto che gli accordi sindacali di secondo livello riconoscevano un punteggio maggiore ai fini dell'assegnazione del nuovo bando. Oggi quindi siete in sciopero e cosa chiedete? Siamo in sciopero oggi, ma siamo già stati in sciopero martedì 7 per l'intera giornata, poi l'8 e il 9 di gennaio per 2 ore in ingresso o in uscita a seconda dei turni, e oggi scioperiamo di nuovo per tutta la giornata, di nuovo con un presidio che mi auguro sia più partecipato dello scorso, che era anche post festivo, e poi nei prossimi giorni faremo altri scioperi di 2 ore in ingresso o in uscita fino a che l'azienda non convocherà il tavolo. Vedremo quando ci convocherà, se sarà disponibile a ripristinare gli accordi o farne di nuovi, vedremo come si comporterà. Di quanti lavoratori stiamo parlando, che vengono coinvolti da questa decisione? Sono a Bologna circa 150 e sul resto nazionale sono circa altri 200, quindi sono un totale di 350 i dipendenti di Coin e Bologna, forse qualcosina anche di più, perché ci sono molte altre sedi oltre Bologna, però Bologna è la sede storica, perché è la sede dove era presente inizialmente tutto l'appalto, non c'erano altre sedi, solo Bologna. E dopodiché l'azienda, con la crescita esponenziale di ERA, che è diventato un global player nazionale, sostanzialmente Coinè ha aperto numerose altre sedi, adesso sono circa una decina di sedi, e quella storica di Bologna si sta riducendo piano piano. Su questo, tra l'altro, noi abbiamo aperto una vertenza a gennaio 2024 per denunciare il fatto che Bologna si sta svuotando, stanno diminuendo le persone, non vengono ripristinati i numeri, e però dalle altre parti tutte le altre sedi crescono, e quindi stanno cercando di silenziare Bologna.